Il punto di Stefano Folli. Quello che succede dentro i riti, i litigi e i dispetti di un mondo a parte interessa solo i diretti interessati, così come le bizze e i mugugni dei partiti minori riguardano solo loro. Ma quello che può capitare in Parlamento alle riforme, in particolare alla riforma elettorale, tocca tutti gli italiani, è per questo che bisogna prestare ascolto ai turbamenti della nomenclatura politica, per quanto la cosa possa disturbare. Renzi fa l'antipolitico, l'uomo in sintonia con il paese che disprezza le trame del palazzo, e forse ha ragione dal punto di vista mediatico, ma dietro le quinte si preoccupa e come del destino parlamentare della sua opera, perché la minaccia palese, o approvate la riforma oppure si va a votare, non è detto che sia efficace. Se si votasse oggi sarebbe con il proporzionale, ai suoi avversari e ai partitini la prospettiva potrebbe non dispiacere affatto. Si rimetterebbe, e tanto, sarebbe solo l'uomo nuovo che viene da Firenze.